Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Luciano Bonetti, Foppa Pedretti, azienda, formato famiglia, di Anna Marino. Avevo casa proprio in parte all'azienda Foppa Pedretti, ho sposato una figlia di Foppa Pedretti, ma non c'entravo proprio niente, e avevo proprio casa in parte, e casualmente da noi arriva Santa Lucia il 13 di dicembre e i regali erano oggetti in legno, quindi il cavallino con il carrettino dietro, mi ricordo il camioncino che per me è rosso col giallo, e c'aveva tutte le botti del vino, c'aveva tutti i sacchettini. Mio padre era un commerciante in cereali, quindi il padre c'aveva i sacchi del frumento, del mais, e mi ricordo la stalla con i cavalli. E quindi ogni anno ricevevo un giocattolo che però arrivava dalla porta in parte, perché eravamo proprio confinati. Luciano Bonetti, nato a Bergamo il 3 febbraio 1948, è presidente di Foppa Pedretti. Imprenditore e dirigente sportivo, Bonetti è il marito di Pinangela, una delle tre figlie di Ezio Foppa Pedretti. Ezio, con il fratello Tito, ha fondato nel 1945 l'azienda formato famiglia di Telgate. Insieme hanno trasformato una fabbrica di giocattoli, nata nell'immediato dopoguerra, in un gruppo che produce dai seggioloni agli assi da stiro, dai mobili per il giardino ai componenti per la cucina. Tito ed Ezio, due facce di una stessa medaglia, avevano in comune anche il giorno e il mese di nascita. Il 3 giugno, anche se Tito era più grande di 2 anni e non si era mai sposato, dedicando tutta la vita all'azienda, ha seguito la produzione pezzo per pezzo fino alla sua scomparsa qualche anno fa. Luciano Bonetti, laureato in ingegneria elettronica presso il Politecnico di Milano, dedicatosi poi all'insegnamento, ricorda il primo giorno in azienda. È un'azienda che è nata nel 45, 30 anni dopo, io sono entrato nel 76, circa 30 anni dopo. E faccia conto che l'ha fondata mio suocero, due fratelli la fondarono, di cui uno era sposato con 3 figlie e un maschio, e l'altro invece non era sposato. La cosa che mi ricordo è questo rapporto bellissimo tra i fratelli che si compensavano ma senza mai discussioni. Il mio ingresso è stato abbastanza interessante e carino, perché già discussi il primo giorno che andai a lavorare, perché mio suocero, che era una persona molto attenta sul lavoro, pretendeva che io facessi il carrello invece che l'ingegnere, quindi spostassi i pezzi di legno in modo tale da dare ritmo in produzione in fabbrica, perché una volta questa era la cosa. E nella realtà io la mattina dopo presi i numeri che producevano, la mattina dopo andai in ferramenta, comprai un carrello di tasca mia, lo misi lì, parlai con gli operai e gli dico: voi fatemi almeno quel numero che avete fatto, io incomincio a fare i disegni dei prodotti. E il giorno, alla sera scese mio sorello e dice: quanti pezzi sono stati fatti? Erano stati fatti il 10% dei pezzi in più, perché gli operai si sentivano motivati dall'avere la responsabilità. E io avevo fatto dei disegni, gli ho detto: guardi, il carrello fa il mio lavoro, adesso lei mi deve pagare per i disegni. L'attività professionale di Luciano Bonetti in azienda conta diverse responsabilità in crescendo. Entra a far parte dell'organico della Foppa Pedretti, diventando responsabile di produzione fino al 1978, quando viene nominato direttore commerciale. In seguito diventa amministratore unico, dal 1981 al 95, quando, con la trasformazione da SRL in SPA, diviene presidente del CDA del gruppo Foppa Pedretti. Dal 2003 è anche presidente del Volley Bergamo, una crescita che ha un punto di riferimento letterario. Io ho fatto liceo classico e poi l'ingegneria, quindi proprio due cose contrapposte, proprio perché, pur essendo bravissimo in latino e greco, io volevo conoscere. Il mio obiettivo principale è sempre stato la conoscenza. È proprio il verso di Dante: fate non foste a vivere come bruti, ma per servire virtute e conoscenza, fino a spingerlo a buttarsi al di là con le navi per vedere cosa c'è oltre. E ho fatto questo lungo percorso e mi sono fidanzato con la mia vicina, Foppa Pedretti, diciamo la prima figlia di mio suocero, e casualmente la sorella di mio suocero, che anche lei era impegnata in azienda, anche lei senza figli, morì all'improvviso e lasciò un vuoto all'interno dell'azienda che riguardava la produzione. Mio suocero mi chiese se io avessi voluto entrare come responsabile in produzione. Entrai come responsabile di produzione e c'era un direttore commerciale che veniva dall'esterno, ma che non ci convinceva come strategie, e un giorno se ne andò via con tutta la forza vendita, andando da un concorrente, e ci guardammo in faccia, mio socio dice: te la senti di portare avanti l'azienda? Io avevo 27 anni, dico 28, sì. Ho detto: guarda, questo è il denaro che hai a disposizione, non potrai scontare le ricevute bancarie, fai quello che vuoi, io mi fido. E fece quello che neanche mio padre aveva fatto. Luciano Bonetti ricorda come ha conosciuto sua moglie all'università. Da ingegnere conoscevo quello che è la costruzione, ero elettrotecnico, ho fatto esame a civile, tra l'altro a un esame di scienza della costruzione invece di chiedermi un'equazione di equilibrio di qualsiasi immobile mi ha chiesto un'equazione di equilibrio di una sedia a giardino, quindi vede che un po' di destino c'era. E mia moglie, che è molto più giovane di me, fortunatamente per lei, l'ho conosciuto perché gli facevo lezioni di matematica e mi chiese di fare delle lezioni di matematica e ci siamo conosciuti in quella maniera. Fotografia di famiglia. Ecco come Luciano Bonetti ha trovato Foppa Pedretti al suo arrivo. Ho trovato un'azienda votata alla qualità, perché i due fondatori avevano come concetto fondamentale la qualità, un perfezionismo pazzesco, un grande amore per il legno, un grande rispetto per il legno, che poi arrivava di famiglia, perché prima di fare questa azienda i nonni facevano, o i bisnonni facevano i confessionali di legno, poi hanno fatto i carretti di legno, quindi questo legno che ritorna in tutte queste fasi della vita di questa famiglia poi ha contagiato me, non so se era la polvere perché ero vicino, però in pratica mi ha contagiato e sono entrato e ho visto questa grande passione e un lavoro artigianale fantastico, un'azienda che aveva redditività, non aveva forse una continuità diciamo familiare veloce perché le figlie erano femmine, avevano 20 anni, lui a 50 anni, mio socio era già molto spremuto perché lavoravano sabati, domeniche, erano i cinesi di allora in realtà le aziende in Italia. Mi ricordo che in chiesa il prete diceva che doveva smettere di lavorare la domenica mattina perché il sabato era normale che lavorassero fino alle 10 di sera, quindi è una realtà ambientata nel territorio degli anni 60 in cui sono nate le prime aziende. Però c'era questo legame ferreo col legno e la qualità, che era una cosa importante. Il mio socio era terribile sul controllo qualitativo. L'azienda ha iniziato proprio dai giocattoli che Ezio Foppa Pedretti intagliava a mano e Luciano Bonetti racconta come è diventato Mastro Geppetto per gli amici. Un'altra azienda Foppa Pedretti molto famosa in quel periodo è stata forse ed era di il nonno di mio suocero, che poi l'aveva presa non il papà di mio suocero ma un fratello, era la più grande azienda europea nei manici per ombrelli, quindi fatti i manici, aveva, faccio conto, negli anni 50 aveva 180 dipendenti, quindi un'azienda molto importante. E lui, che aveva 20 anni, quello che mi raccontava, andava dallo zio e gli diceva: senti, mi dai dei pezzi di legno che faccio qualcosa anch'io? E con questi pezzi di legno non poteva far manici e si è messo a fare i giocattoli, che poi andava a vendere sulle bancarelle a Santa Lucia in parte. Poi mi raccontò che si presentò in Upimo, in Rinascente, adesso non mi ricordo quelle che due, un pomeriggio davanti al portinaio e dice: io vorrei parlare perché ho dei prodotti da vendere. Il portinaio dice: ma sei un bambino, aveva 20 anni, 19 anni, cosa vuoi? Gli aprì la valigetta, fece vedere i giocattoli. Quello gli procurò la visita al responsabile acquisti e fece il primo grande ordine. Foppa Pedretti si è dedicato poi al mobile e Luciano Bonetti spiega perché. Il passaggio è abbastanza significativo. Il legno è sempre in fuga, come dico io, è in fuga dalla plastica, dal metallo, da questo. Ovviamente la plastica, che ha un costo energetico molto alto, diciamo in kilojoule di energia, ma che però ha facilità di stampaggio con gli stampi e quindi costi bassi, il giocattolo di legno venne seguito dai primi giocattoli di plastica che costavano molto meno, che erano molto più colorati, che erano novità. E quindi cosa fece mio socio? Prima cosa fece, siccome il giocattolo è stagionale, erano gli anni delle prime 500, delle 600, dei primi picnic, e cosa fece? Lui fece le valigette da picnic in legno. Quindi quelle che poi adesso o per anni dopo si vedevano in metallo sono nate in legno, come il primo seggiolone in legno. Cercò di fare delle cose che fossero in controstagione rispetto al giocattolo, come le valigette da picnic, e qualcosa che assieme al giocattolo si vendesse, che era il seggiolone in legno, il lettino in legno e il mobile a giardino. Si evolse e quando sono arrivato io l'azienda aveva l'80% del suo fatturato era fatto dai mobili da giardino. L'azienda ha vissuto vari passaggi generazionali. Ecco come li ha visti Luciano Bonetti e come li vede ora, con una rivoluzione all'orizzonte. Abbiamo dovuto decidere una cosa inizialmente, e che era un'alternativa possibile. Io onestamente mi sentivo più un manager che una famiglia. Casualmente avevo sposato la figlia, ma mi sentivo manager per una cultura di lavoro fatta prima, per una cultura di, diciamo, di studi miei. E la mia passione era sempre stata quella di fare l'imprenditore. Io non avevo fatto l'ingegnere per fare i calcoli, io volevo fare l'imprenditore, anche perché mio padre era un commerciante di cereali, collaborava con Ferruzzi, con Gardini, importante, quindi economicamente stavamo bene e questo volevo fare. Quando sono entrato ho cominciato a appassionarmi al legno, perché era una materia prima trasformare, vedevo che si poteva fare delle cose molto belle, avevo già costruito da mio suocero una realtà in cui gli operai sapevano lavorarlo, lavoravano a qualità, quindi partivo già avvantaggiato, con anche una solidità economica. Ci siamo riuniti e abbiamo deciso cosa avremmo dovuto fare in questa azienda. O un'azienda familiare o un'azienda manageriale. La famiglia di Foppa Petretti è composta da tre sorelle e il fratello più piccolo, e abbiamo concordato che tutti sarebbero entrati in azienda con delle funzioni. Infatti c'è mia moglie che adesso è al marketing, mia cognata Enrica che segue tutto quello che è l'amministrazione e tutte le risorse umane, l'altra mia cognata che segue gli acquisti e la produzione, e abbiamo inserito anche i mariti, quindi anche i miei cognati, proprio l'abbiamo fatta, e l'altro mio cognato che è l'ultimo, proprio l'unico Foppa Petretti che segue un'azienda esterna. Quindi abbiamo deciso di farla familiare, con tutti i problemi di fare un'azienda familiare, perché nelle aziende familiari tutti si sentono padroni e nessuno si sente sottoposto. L'unico grande vantaggio che io ho avuto è che, essendo entrato per primo e avendo contribuito a sviluppare l'azienda, carismaticamente riesco a tenerli a bada e quindi faccio da collante rispetto. E mio suocero, che ha ancora 84 anni, che però è presente, non sempre perché dipende da un po' delle malattie dell'anzianità, però serviamo e sempre mi ha supportato, segniamo collante. E l'azienda si è sviluppata. Adesso il problema sarà il prossimo passaggio generazionale, perché la prima scelta che abbiamo fatto è stata quella però di non permettere a nessuno dei nostri figli di entrare. Quindi l'azienda, il suo futuro sarà manageriale, di sicuro. E proprio per fare questo, perché altrimenti avremmo dovuto gestire 8 nipoti, più i cognati, più le cognate, diventava un rebelote impossibile, abbiamo deciso che si sarebbe fermata la famiglia a noi, alla nostra generazione, la successiva sarebbe stata diversa. Io ho una figlia di 34 anni e una di 26, fanno tutt'altro. È il nodo della vita di ognuno, bilanciare vita, lavoro, passioni, interessi. Queste le priorità di Bonetti. Io ho incontrato il dolore molto presto, perché sono stato in più ospedali, e per mamma e per delle operazioni al cervello, e per mio fratello che a 23 anni è rimasto paralizzato in un incidente stradale, quindi sono stato con lui 8 mesi in Svizzera in un centro di paraplegici, e poi è stato operato al cuore a Houston, quindi l'ho seguito in queste fasi e ho visto che dietro l'angolo c'è sempre la possibilità di avere il dolore. Quindi io ho sempre pensato che bisogna dare delle priorità nella vita. La priorità che ho dato io principalmente alla mia vita è sempre stata la mia famiglia, me stesso e poi il lavoro. E se mia figlia mi chiama al telefono perché ha un problema, io lascio il lavoro e vado da mia figlia. Luciano Bonetti spiega le sue idee su come si affrontano la crisi e le opportunità all'estero, e come si crea un mondo che abbia un ambiente migliore. Tu hai dato il 100% di quello che puoi dare, per capacità e per tutto. Non hai distorto risorse dall'azienda per fare cose strane, e ti sei impegnato al massimo. Se a posto con la tua coscienza, tu devi non agitarti di fronte al nemico, perché fai solo errori. Bisogna che l'imprenditore italiano impari anche, come è successo a noi ultimamente, di fare un bilancio in perdita, che fa parte della logica a lungo periodo. Poi guadagnerai di più l'anno dopo, di non fasciarsi la testa. Ho visto la Cina, le preoccupazioni della Cina, e ho pensato alla Cina come una risorsa. Quindi abbiamo pensato noi di costruire una fabbrica in Cina per vendere in Cina e poi di partire a Shanghai con 4-5 negozi, in modo tale da costruire la Foppa Petretti China. In secondo luogo, pensare a un'azienda nel futuro in proporzione alle esigenze che l'uomo ha. E l'ecologia è una delle esigenze imprescindibili. Ecco, questo è un ecosistema. È l'ecosistema di Foppa Petretti. Vendiamo prodotti ai bambini. Vorremmo anche lasciargli un mondo migliore. Penso che le grandi aziende